bambini, venite qui bambini che partiamo. In giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi San Francesco puoi trovar. A destra Ville Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nel Lazio c'è la Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Questa è l'Italia. E allora buongiorno a tutti e tutte, cominciamo questa nuova puntata di In Giro per l'Italia. Dopo tante vicissitudini, purtroppo non siamo riusciti a farla quando avevamo prospettato, quando avevamo pensato di farla, cioè qualche settimana fa, oggi finalmente ci riusciamo e questa puntata è dedicata alla Regione Umbria, come avevamo già anticipato nell'ultima puntata, e abbiamo in collegamento alcuni compagni di varie città e paesi di questa regione e abbiamo subito in collegamento un compagno di Terni del centro sociale Germinale Cimarelli e che fa parte, questo poi chiedo di correggermi se sbaglio, anche della rete antifascista. Ci senti? Sì, ciao, buongiorno. Perfetto, allora buongiorno, benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie dell'ospitalità. Ok, allora senti, niente, come un po' ti dicevo quando ci siamo sentiti, quando ti abbiamo contattato, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa già sapranno un po' qual è lo stile di questa trasmissione, per cui io direi di cominciare anche molto velocemente e ti chiedo di farci una breve contestualizzazione, giusto per capirci qualche cosa di più, darci qualche coordinata sulla città di Terni, come si vive a livello economico, sociale e anche a livello politico. Chiaramente poi ci stanno alcune cose che sono saltate alla ribalta nazionale e poi magari approfondiremo anche su quello, però a te la parola e raccontaci qualcosina. Ok, ti ringrazio. Vabbè, guarda, cercherò di essere più breve possibile. Terni, più o meno, insomma, come storia è abbastanza conosciuta perché è molto legata alla sua tradizione operaia, quindi parliamo di una città con un certo background. Una città però di fatto che è di provincia e che quindi ha tutti i problemi e i limiti delle città di provincia, volendo anche i pregi, dai, mettiamoci pure quelli. Che cos'è? Allora, la situazione attuale di questa città, che viene, ripeto, da una storia di lotte operaie, insomma di consapevolezza, eccetera, eccetera. Oggi che cos'è? Terni oggi è una città di emigranti, probabilmente, insomma, sta diventando. La cosa che, insomma, per tante città magari del sud è una cosa abbastanza usuale, per noi no, e invece anche Terni è diventata una città che con il graduale diciamo così, il smantellamento dell'acciaieria, che per quanto non sembra, ma è un percorso tra l'altro che ha decine di anni di storia, gradualmente la fabbrica è sempre che è sempre rimpicciolita dal punto di vista occupazionale e anche degli investimenti. Insomma, è una città che si sta svuotando, perché poi alla fine è normale che chi non ha prospettive lavorative, se prima si adagiava molto comodamente su mamma acciaieria, che era quella che tutti metteva a lavorare, oggi le cose sono un po' cambiate, non ci sono più garanzie neanche per chi ci sta dentro, per cui ecco, quello che si inizia a vedere a Terni sono i compagni e gli amici che li saluti e partono, mediamente per l'estero, ma anche insomma qualcuno anche per il nord Italia, però insomma ecco, quella secondo me la novità rispetto al passato è un po' questa, che non è più in grado, sebbene fosse una città con delle difficoltà oggettive, perché molto ancorata proprio al suo discorso che è una dell'acciaieria, che se da un punto di vista è una risorsa, da un altro punto di vista è un limite, perché quando ti limiti a prospettare lavoro solo all'interno di essa è chiaro che c'è poca prospettiva. E, però bene o male insomma aveva sempre garantito lavoro, ha sempre tutelato insomma il Ternano, invece le cose sono un po' cambiate, ormai i Ternani non si sentono più garantiti e tutelati con il futuro assicurato, per cui ecco, quello che si sta iniziando a vedere è proprio questo flusso di allontanamento, che poi credo che non sia neanche solo tipico di Terni, insomma penso che è un problema abbastanza diffuso. Quindi diciamo, ecco, da questo punto di vista insomma la situazione è questa. Dal punto di vista sociale, come la maggior parte delle città di provincia, la botta grossa della crisi è arrivata un po' in ritardo, quindi diciamo negli ultimi 2 anni, quindi quando i nostri buoni governanti dicevano che si iniziava a parlare di ripresa, da noi arrivava la botta forte della disoccupazione, della crisi, della mancanza di investimenti, di tutela, dei contratti a ribasso, degli stipendi ridotti al minimo, delle casse integrazioni, e quindi diciamo ecco, arrivare a fine mese è diventato più difficile adesso che forse qualche anno fa. Beh, quindi, di ecco, sicuro è molto significativo questo che ci stai raccontando, che è una città comunque del centro Italia che storicamente ha potuto essere non autosufficiente chiaramente in termini di città, ma comunque per l'industrializzazione ha sempre potuto contare sulla possibilità di rimanere in loco per portare avanti la propria vita. Ecco, questo è molto importante, che con lo smantellamento progressivo oggi ci si ritrovi in una situazione parzialmente simile a quella della maggior parte delle città del sud Italia, cioè di emigrazione. Ma Terni io l'ho sempre considerata l'ultima delle città del sud, da sempre, perché se vedi anche per come è organizzata storicamente, economicamente, tra, per dire, la bassa Umbria e l'altra Umbria, quindi tra Terni e già la provincia di Perugia c'è proprio uno stacco netto dal punto di vista proprio della qualità della vita, delle possibilità di lavoro, delle prospettive. Io Terni l'ho sempre associato al sud, devo dire la verità, e ha i suoi pregi e ha i suoi difetti, è ancora più evidente. Certo, assolutamente ha i suoi pregi, perché comunque sia alcuni valori ancora sono forti. È una città che a differenza di altre si è imborghesita un po' più tardi, indubbiamente, però d'altro canto è vero pure che purtroppo poi ci sono le difficoltà di tutte le città che rimangono un po' indietro. Insomma, la cosa, l'aspetto proprio fondamentale è quella che proprio del fatto che essendo una città di provincia arriva tutto più tardi. Certo, senti, ma per entrare nello specifico, visto che comunque nei mesi scorsi c'è stata una mobilitazione importante degli operai delle acciaierie, se ci vuoi dire più o meno a che punto è la situazione oggi, come può evolvere, questo anche prima di entrare nel vostro intervento politico, anche solo per conoscere com'è la situazione. Sì, no, giusto per fare un'analisi più veloce, insomma, vabbè, chiaramente la mia è un'analisi strettamente personale, poi tanti potrebbero non essere d'accordo, ma il dato di fatto è che questa è una vertenza che va avanti da anni, da decine di anni. Nel 2003 si parlava del magnetico, non so se ti ricordi, insomma smantellarono un intero reparto. Insomma, adesso si era arrivato a dei tagli che sono usciti fuori come una bomba, ma una bomba si fa per dire, perché erano tutte cose facilmente prevedibili. Quindi parliamo di settembre, quando di quest'estate, quando esce fuori il progetto della ThyssenKrupp di mandare a casa molti operai. Oggi parliamo di 3.000 operai, cioè a settembre si parlava di 3.000 operai che lavoravano lì dentro, e considera insomma che tra indotto, tra indotto e operai stessi si parlava di tagli che potevano arrivare quasi alla metà degli occupati. Cioè di fatto la morte sociale per un'intera città e anche parte della perché provincia. Poi sappiamo tutti che cosa significa, insomma, quando non ci stanno più soldi, quando la gente non va a fare più la spesa, insomma, però devo dire, da questo punto di vista Terni ha ricevuto il messaggio, ha capito che chiudendo la fabbrica senza alternative valide, senza prospettive di reinvestimento, è una città che è destinata a morire, perché poi si muore tutto quello che c'è attorno, perché insomma, sono flussi di denaro che toglie la città e di conseguenza la gente poi non consuma più, quindi l'economia ne risente tutta. Che cosa è successo? È successo, come al solito, le grandi battaglie dei sindacati nostrani, no? Che tu ben conosci, insomma, quindi insomma, le solite pantomime di lotte che da una parte hanno visto sicuramente la buona fede e anche un po' di ingenuità da parte di delegati sindacali locali, operai con a cuore le sorti della fabbrica. Mi viene da pensare a qualche delegato FIOM cittadino che insomma ancora crede nel sindacalismo, in certo tipo di sindacalismo. Ci sono state battaglie che sono state delle pantomime, principalmente perché i sindacati non sono assolutamente in grado di avere forza per contrastare una multinazionale che principalmente ha l'appoggio di un sistema economico e politico nazionale. Quindi già tu sindacato, già da questo punto di vista sei con le mani legate. Se poi come sindacato non hai forza e non hai valore perché non sei nient'altro che un'agenzia interinale, la cosa poi diventa ancora più complicata. La battaglia ovviamente è stata a ribasso e persa, ma come al solito te la raccontano come una vittoria, come tutte le cose. Il risultato della partenza è stata che si prospettavano 300, devono effettuare una cosa come 300 tagli, la proposta dell'acciaieria è stata le buone uscite, che era quello che poi alla fine noi all'inizio pensavamo, tu vedrai che toccherà fare la battaglia sulle buone uscite, e di fatto poi quello che è venuto fuori è stata che per uscire l'acciaieria ha proposto, la Thyssen ha proposto agli operai per uscire una cifra diciamo così, che da una parte dal punto di vista è una miseria, ma per chi vive nella miseria è comunque una cifra ragguardevole, perché si parlava di circa 90.000 euro l'ordine, cosa del genere, e poi si riducono a 60.000, però insomma questa è stata la proposta. 300, la necessità di tagliare 300 persone, se ne sono andati in più di 400. Ecco. Senti, guarda, io condivido con te questa riflessione sul livello di mobilitazione degli operai, in generale dei lavoratori quando si trovano ad affrontare queste situazioni, ma anche per quelli che sono i rapporti di forza in campo. Cioè noi, anche con altre trasmissioni che trattano specificatamente di conflitto sul lavoro, ecco, abbiamo analizzato questo, che nel momento in cui un'azienda propone un piano di licenziamenti o di ristrutturazione di organizzazione aziendale è molto molto difficile fermarlo se prima non ci sono state mobilitazioni, se non c'è stata una presa di coscienza, se prima non si sono messe in campo delle iniziative di lotta. Questo perché? Perché nel momento in cui un'azienda ti dice ti voglio licenziare, comunque è già molto bello, difficile, è già bello che è fatto. Esatto, per cui questa è una condivisione da fare, perché purtroppo c'è da dirlo, in questi tempi di crisi economica, che laddove in alcuni casi è vera, esiste, in tanti altri casi è solo utilizzata come un paravento, chiaramente bisogna anche prepararsi all'eventualità che prima o poi l'azienda decida di mandare tutti a casa, ed ecco, in quel caso forse sarebbe... Ma poi questa storia c'ha anni, insomma, non è che niente di nuovo, appunto, la fabbrica della Thyssen sta smantellando da anni, quindi non era manco difficile da prevedere. Il discorso di fondo è che l'operaio... ti parlo del caso di Terni, è mosso da buoni valori e da buoni sentimenti, si vuole difendere il lavoro e quello che ha, che non è niente di eccezionale, perché poi comunque si parla di un lavoro con un rischio di morte altissimo, con un rischio di contrazione di tumori altissimo, quindi non è che sia tutto sto granché, però è un lavoro insomma, che ti garantisce uno stipendio dignitoso per sopravvivere in una città come Terni. Poi mediamente gli operai ternani ci hanno sempre, noi li definiamo diciamo il ternano, l'operaio dell'acciaieria, in particolare quello di una certa età, lo viene definito metal mezzadro, perché mediamente è un metal meccanico che poi c'ha il suo campo, c'ha i suoi oliveti, c'ha le sue cose, per cui insomma bene o male il ternano, insomma, sarà creato in fabbrica un contesto per vivere tutto sommato accettabile. Il problema qual è? Che l'operaio in questo modo, con questa sorta di pseudo benessere, che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che delegare le lotte, perché non aveva più bisogno, certo. Quindi ha delegato al sindacato, e quando tu deleghi a un sindacato che si trova, non è più un sindacato, ma è una sorta di mediazione tra padrone e lavoratore, poi quando succedono, escono fuori le cose come realmente sono e come diciamo in modo complice il sindacato non ha saputo intercettare, che cosa rimane? Rimane la rabbia dell'operaio che si incazza. Quest'estate, attimo di follia, hanno occupato la palazzina centrale, hanno asserragliato l'amministratore delegato, la Morselli, che è non so se conoscete il soggetto, insomma è stata una persona, una grande provocatrice, è stata asserragliata e chiusa dentro per 7-8 ore, fino alle 5 della mattina, è stata sequestrata, si può dire, si potrebbe quasi dire, dagli operai dentro la fabbrica, è dovuto intervenire la Digos, insomma. La rabbia degli operai quando viene fuori, il problema è che è una cosa estemporanea. Poi arrivano i sindacati che da soliti pompieri iniziano le loro vertenze che si spengono tristemente in pseudo accordi che sono ovviamente sempre al ribasso e molto vicino a qual era l'idea originaria della fabbrica, quindi poi di fatto... Certo, senti, tu prima hai accennato a un aspetto ed era un'ulteriore domanda che ti volevo fare, chiaramente magari in maniera breve così poi andiamo alla parte di attività politica che svolgete uh-huh. come centro sociale. Hai fatto riferimento a tumori e a rischi per la salute, ecco, visto che comunque l'industrializzazione porta sì il lavoro ma in tantissimi, nella maggior parte dei casi porta anche rischi per la salute e anche devastazione ambientale, ti volevo chiedere da questo punto di vista nella città di Terni ci sono studi, comunque c'è coscienza di degli effetti negativi allora, che invece le acciaierie hanno potuto portare? Allora partiamo da un presupposto: Terni è una piccola Taranto e già parla da acciaieria... ok, sì, perché semplicemente l'acciaieria di Terni è più piccola di quella di Taranto solo per quello. I risultati in proporzione sono, diciamo così, gli stessi di Taranto in proporzione, per cui le zone attorno all'acciaieria sono fortemente inquinate, ci sono l'acciaieria ha delle discariche, le quali discariche sono tra l'altro anche mal gestite e inquinano superfici ampissime del territorio cittadino. La fabbrica in sé, proprio con le ricadute dei fumi, con le scorie, inquina moltissimo. Se ci metti questo, e parliamo comunque di livelli veramente alti, se ci metti questo, ci metti pure che noi abbiamo anche la fortuna di poter usufruire di due stupendi e pienamente funzionanti inceneritori, fatti un attimo un'idea di una città di 100.000 abitanti, tra l'altro in una conca dove non c'è ricambio d'aria, tu immagini di quello che è sta città. Molto ecco. Chiaro come esposizione. Questo per capirci. E quindi diciamo così, i risultati dell'inquinamento, se poi dopo parleremo degli inceneritori, se vogliamo parlare della fabbrica, i risultati di tutto questo inquinamento sono che principalmente insomma l'aumento dei tumori è visibile, è concreto, le patologie respiratorie idem. Il capolavoro è che le amministrazioni comunali, ovviamente dopo anni e anni di complicità, continuano a tenere la testa sotto la sabbia, per cui tu immagini il nostro sindaco è un medico e riesce a continua a sostenere, riesce ad avere il coraggio di sostenere che non c'è connessione tra i livelli di PM10 nell'aria e i tumori, insomma. Ma certo. un medico, non un sindaco, un medico. Ecco. Quindi in tutto questo ci sono studi, ci sono battaglie che si sono più incentrate diciamo, sul discorso degli inceneritori, ma poi ne parleremo perché più avanti, perché comunque è un progetto che parte dal centro sociale. C'è un lavoro, un bel lavoro fatto su questo, principalmente sul discorso inceneritori, perché sulla fabbrica diciamo così il lavoro e la battaglia se le stanno facendo se la sta facendo la magistratura di fatto, perché poi sono state costruite delle gallerie sotto le discariche dell'acciaieria, ci sono state fuoriuscite di percolato, operai che hanno danni permanenti, insomma ci sono tutta una serie di indagini sui fattori inquinanti insomma legati alla fabbrica. Bisognerà vedere adesso come le cose procederanno come al solito insomma ci sono i limiti di legge per ammazzare la gente, insomma. Senti, per entrare invece nel vivo della vostra attività politica come centro sociale, su quali diciamo tematiche, lotte prova ad avanzare? Ma guarda, allora il centro sociale, il centro sociale Cimarelli è un progetto che nasce qualche anno fa, diciamo, è l'evoluzione del vecchio centro sociale Icaro. È un, diciamo così, un progetto un po' ambizioso che sostanzialmente ha provato a radunare tutte le realtà antagoniste della città, che erano frazionate in mille micro realtà, come spesso succede, essendo pochi a Terni, mentre magari in altre città le micro realtà riescono a organizzarsi e essere anche a incidere. A Terni, diciamo, questo è il problema, siamo talmente tanto pochi, proviamo a stare tutti insieme e vediamo quello che viene fuori. Quindi il centro sociale nasce come un laboratorio eterogeneo di soggettività, quindi trovi il comunista, trovi l'anarchico, trovi un po' di l'ambientalista, c'è un po' di tutto. Questo ovviamente con i naturali problemi di gestione che ci sono, però diciamo si cerca di lavorare su quantomeno sulle linee comuni. No, il lavoro politico principale nostro è quello di trovare linee comuni dove tutti ci troviamo e facciamo quelle battaglie lì. Quindi che cosa significa? Diciamo, progetti che nascono all'interno del centro sociale, progetti politici, insomma, ti dicevo, questo nasce da noi il Comitato contro gli inceneritori, che è forse il progetto che è riuscito a smuovere più la sensibilità cittadina, tant'è che adesso è un soggetto che lavora al di fuori del centro sociale, anche se i referenti poi siamo sempre noi, però insomma con parecchie fette della società civile si lavora e diciamo se la battaglia contro gli inceneritori, se fino a qualche tempo fa aveva una prospettiva di piazza, di sensibilizzazione, adesso sta lavorando molto sul concreto e su studi approfonditi, sul sostegno di battaglie legali contro gli inceneritori che prendono gli incentivi per lavorare e poi di fatto insomma puntano a prendere autorizzazioni per bruciare i rifiuti solidi urbani, insomma, quindi questa è la situazione. Questo per quanto riguarda l'attività del Comitato Non Inceneritori che nasce dal centro sociale. Ci sono altre attività, una è la nascita di un mercato contadino che si chiama Mercato Brado, che è direttamente legato all'esperienza di Genuino Clandestino. Non so se conosci il progetto, insomma, comunque sì, progetto, certo, è molto conosciuto. Perfetto, ok. Quindi c'è quello che da anni svolge la propria attività, mensilmente svolge dei mercati fuori dal centro sociale, sono un paio di appuntamenti mensili, in più ha tutta una serie di attività collegate di sensibilizzazione rispetto a tutte le criticità che ci sono rispetto all'accesso anche lo stesso inquinamento che poi ti va a ricadere sui prodotti che tu ti vai a coltivare, insomma, quindi è un discorso anche molto più ampio. Ulteriori progetti all'interno del centro sociale, c'è una sala prove che è ispirata insomma a Renoiz, al progetto dell'Agrobax dedicato a Renato Biagetti, questo è Renoiz 2, è un progetto, insomma, è una sala prove che lavora molto sulla musica dal basso. Anche come fattore di aggregazione magari con ragazzi, una versione un po' più giovane, no? Assolutamente sì, cercando di lasciare poi di lanciare ovviamente quei messaggi che erano quelli del, no, figlio del dramma dell'esperienza di Renato, per cui certo. Ecco, da questo punto di vista insomma è un altro dei vari progetti che si portano avanti. Poi ci sono tutta una serie di attività, ti potrei parlare delle attività laboratoriali, dei teatri, insomma tutta una serie di attività. Poi ovviamente insomma, e poi c'è un tema insomma di cui noi ci facciamo promotori, che è quello insomma legato all'antifascismo. Infatti stavo per chiedertelo proprio. Esattamente, sì. Diciamo, noi siamo promotori e soggetti integri della rete antifascista, che è una rete che cerca di lavorare più diciamo trasversalmente in città, coinvolgendo soggetti anche più istituzionali, ma che siano comunque soggetti sensibili all'argomento, perché quello che è successo a Terni, ecco il perché della nascita di questa rete, è che sono state una serie di fattori concomitanti che hanno portato alla nascita e anche diciamo così a un'evoluzione purtroppo però negativa della presenza di Casa Pound, le care e simpatiche tartarughe. Che cosa è successo a Terni? Piano piano si sono affacciati, sapete, Terni è una città storicamente rossa, quindi sempre stata molto allergica a certe presenze. Quello che è successo negli ultimi 7-8 anni è che un teorema è stato portato avanti dalla questura, che è il teorema che, per cui l'antifascismo militante fosse fuori legge e assimilabile alla violenza fascista, e questo teorema portato avanti dalla questura, in particolare dall'ufficio della Digos, che ha riempito poi di fatto gli antifascisti di procedimenti penali. Noi siamo pieni di procedimenti, 11 di noi, tra cui il sottoscritto, insomma, ci siamo fatti 3 anni di avviso orale, manco fossimo, non so se sai che cos'è l'avviso orale, purtroppo lo conosciamo bene, cos'è l'avviso orale. Scusa, ti chiedo per conoscerai queste cose, certo. Ti chiedo per pro forma, insomma, ecco, quindi l'antifascismo è diventato reato a Terni per un teorema della Digos che è stato complicemente avallato da un'amministrazione di sinistra che, ovviamente, come sapete, essendo amministrazione comunale, istituzione di sinistra, insomma, è del PD nella sostanza, non è niente di diverso da qualunque amministrazione di destra, perché di fatto il lavoro nella città che fa nella città è un lavoro ovviamente legato alle lobby che nella città ci lavorano, che spesso e volentieri sono legate a doppia mandata con lo schieramento politico, per cui di fatto che qual è il messaggio? Da un punto di vista gli antifascisti sono diventati fuori legge, da un altro punto di vista il messaggio che, si dà alla città è che un'amministrazione tra virgolette rossa non è tanto diversa da un'amministrazione di destra. Esatto. Se ci metti la crisi, mettici tutte queste cose, ecco che esce fuori il consenso a destra per dispetto a questa amministrazione che ormai sono anni che ha delle posizioni che sono sempre più lontane da quelle delle loro origini. Quindi che cosa succede? Succede che all'improvviso anche a sinistra c'è gente che inizia a strizzare l'occhio a Salvini. Ecco che succede, che Casa Pound inizia a raggruppare soggetti di destra, anche istituzionali, ex militanti di AN addirittura, gente di una certa età, e inizia la presenza che inizia a essere invadente, insomma, chiaramente ci sono stati per questo motivo anche vari problemi di ordine pubblico, insomma, che ti lascio immaginare per la presenza di questi soggetti, che devo dire, rispetto ad altre città sono molto molto tranquilli, sanno a Terni dove devono andare a parare, quali sono le tematiche che devono portare avanti per non aver problemi, però di fatto poi quando i problemi si pongono, insomma, sempre fascisti sono. E quindi niente, tutto questo nasce dal fatto proprio che tutta una serie di problematiche, tutta una serie di eventi, tra cui la complicità totale e la responsabilità totale dell'amministrazione comunale, ecco che ci ritroviamo all'esigenza di radunare le forze antifasciste cittadine per fare una battaglia politica che sia quantomeno di sensibilizzazione. La città è una città che ha sempre risposto molto bene, soprattutto a questo aspetto qua. Però iniziaci a mettere in conto, insomma, che i compagni sono stati completamente falcidiati da procedimenti sì. Penali. Quindi ti dico, siamo pieni, siamo invasi, che poi questa è una logica repressoria che non ha preso e non ha colpito soltanto la strada e la città, ma è andata a colpire, per dire, nello stadio, cioè lo stadio che è sempre stato storicamente un bacino di compagni per la città. Eppure lo stadio stesso, gli ultras dello stadio, storicamente compagni, sono pieni di processi, sono pieni di... Certo. Di fatto, insomma, ecco, infatti, la repressione quello che ti volevo chiedere, molto bene. Quello che ti volevo chiedere, soprattutto in relazione alla capacità aggregativa di Casa Pound, hanno provato in qualche modo a infilarsi allo stadio o lì fortunatamente ancora vige un rifiuto provato, netto? Ci hanno provato, mi sembra ovvio. Perché loro, la politica, che poi parliamoci chiaro, qua ci stanno 3-4 burattini, ma sono burattini che hanno ordini precisi da Roma, certo. Puntualmente, cioè sì, loro sì. Hanno le linee guida, non sono le loro, ovviamente. Hanno provato, però per fortuna, insomma, a Terni ancora, i Ternani, gli ultras in particolare, sono molto impegnati a litigare tra di loro e sono un po' distratti rispetto a certe cose, però ancora c'è chi è attento, per cui allo stadio qualche timido tentativo d'ingresso è stato subito risolto in pochi secondi, insomma. Okay. Non sono stati cacciati via, quindi non hanno margine d'ingresso. Se qualcuno, qualche tipo sulla Ternana che si può fare riferimento a Casa Pound, c'è allo stadio, ma c'è perché ci stava anche prima, solo che prima si sconvolgeva con i compagni e mo un po' meno, però di fatto sono soggetti che non sono attivi politicamente, ecco. Gli attivi politicamente di Casa Pound non hanno libertà d'accesso allo stadio. Certo, e questo è importante per fermare un'eventuale aggregazione. Beh, da un punto di vista soprattutto giovanile. Il loro lavoro, diciamo, inizia a funzionare discretamente nelle scuole. Nelle scuole? Sì, nelle scuole. Loro nelle scuole iniziano a avere un po' di proseli, in alcune scuole, parliamo delle scuole dei licei, nei licei principalmente. Sì. E su questa cosa qui noi chiaramente stiamo facendo le nostre valutazioni, però di fatto, ecco, loro allo stadio non hanno margine d'ingresso. Okay. L'ingresso, stanno entrando chiaramente dove possono, noi arginiamo la cosa come possiamo, perché comunque sia, poi quando c'è una delegittimazione della città, sì, quantomeno delle figure principali, il problema di fondo è che veramente poi la questione sembra e si riduce a conflitti tra bande, però il messaggio non può essere solo quello, cioè non può essere andiamo a far cazzotti con i fascisti, qui il problema è un altro, i fascisti bisogna levargli il terreno sotto. Esatto. E prima di tutto lo devono fare i compagni che si devono andare a riprendere le strade. Noi con il centro sociale, devo dire, stiamo cercando di lavorare in questo senso, stiamo cercando di uscire fuori dallo spazio, rientrare nei quartieri, con tutte poi le difficoltà che uno ha, perché non è facile portare avanti le lotte, però insomma qui il nostro tentativo è questo. Sì, non è per niente facile, ma mantenere un binomio tra il dentro e il fuori, il centro sociale, forse è la cosa migliore per poter... No, è necessario, assolutamente. Senti, sappiamo che tu devi scappare al lavoro, però prima di chiudere ti volevo chiedere se vuoi aggiungere qualcosa su un tema a piacere, diciamo, rispetto alla vostra attività politica nella città di Terni, rispetto a quanto ci hai già detto. Ma guarda, no, nulla di particolare, insomma, io, ecco, quello che ti posso, insomma, posso concluderti dicendo che, insomma, che questo progetto è un progetto ambizioso per Terni, perché comunque a Terni, per quanto insomma, l'antagonismo non ha mai avuto, ha una storia forte, ma non è stato mai di massa. Quello che siamo riusciti a fare è stato quello di riuscire a coinvolgere sempre fette più grandi, più ampie di giovani, sensibilizzare poi tutta quella parte, quella zona che sta attorno, diciamo, quella parte dei giovani di sinistra, di compagni che poi non si spendono troppo, insomma, però diciamo il lavoro ha dato dei risultati sicuramente, insomma, rispetto a qualche anno fa, quindi la prospettiva e la speranza è che si trovino le risorse e si rinnovino le lotte, perché è un'esigenza della città, anche perché insomma poi a maggior ragione poi con la presenza di questi soggetti esterni è necessario che le lotte antagoniste rimangano forti e presenti sulla strada in principal modo, ecco. Va benissimo, senti, noi ti ringraziamo, proveremo magari in futuro a risentirci per capire come evolve la situazione nella vostra città, e nel frattempo appunto grazie e un in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie a voi, buon lavoro, un saluto a tutti. Ciao, buona giornata. Okay, ciao a te, ciao. Sì. Io so chi è stato, M'hanno tolto la speranza nella stanza, resta solo un vuoto immane, resta il solco dello squarcio di un dolore infame. Per chi rimane è il netto di un verdetto senza piglio, mai dovrebbe un padre sopravvivere ad un figlio. È un ciglio deposto al capezzale, non placa tutto il male, l'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale? Quanto vale questa morte per la corte al tribunale? Non è normale, qua si muore anche di stato, le guardie l'hanno ucciso senza l'ombra di un reato. Cancellato dalla stampa, calpestato da un'indagine che arranca, neppure il suo ricordo mi rinfranca. Sapeste quanto manca, sapreste del mio sogno senza pace, steso sull'asfalto un corpo freddo che non tace, giace sul torace con i polsi ammanettati, ora grida la giustizia nei suoi occhi depredati. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raldrovandi, le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raldrovandi, l'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? L'ho cercato al cellulare, l'ho cercato in ospedale, l'ho cercato giù in questura e non volevano ascoltare. A quanto pare nessuno ebbe il coraggio di spiegarmi che un giorno come gli altri era il più grande dei miei drammi. Dammi soltanto una ragione, dammi tu la spiegazione. Crepare a 18 anni senza appello né cauzione. La questione, difendersi da un codice corrotto, se il vero criminale è il poliziotto. È verità che voglio adesso, il senso di un processo, gridare a una città che dorme quello che è successo. Adesso che osservo gli imputati messi al banco, scorgo l'arroganza di chi è forte solo in branco. Al mio fianco un'intenzione coraggiosa, la memoria ha un peso e la sua forza è contagiosa. Al mio fianco un'intenzione coraggiosa, perché tutto questo non accada ancora. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chicco Aldrovandi. Omicidio di Stato, Gabriele Sandri. Omicidio di Stato, Aldo Pianzino. Omicidio di Stato, Carlo Giuliani. Omicidio di Stato, Marcello Lonzi. Omicidio di Stato, Stefano Cucchi. Omicidio di Stato, per tutte quelle morti che nessuno sa chi è stato, io so chi è stato. Omicidio di Stato. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico e di cognome Raldrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? E allora ritorniamo in onda con questa puntata di In Giro per l'Italia dedicata alla regione Umbria. Da Terni ci spostiamo a Perugia e abbiamo in collegamento un compagno dei Cobas che salutiamo e a cui diamo il benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ci senti? Sì, vi sento. Ciao, perfetto. Allora, senti, come abbiamo impostato in questi mesi questa trasmissione in giro per l'Italia, come anche abbiamo appena fatto con il compagno di Terni, io ti chiederei prima di tutto di contestualizzarci, di farci un po' un quadro di quella che è la situazione sociale, economica e politica nella vostra città, Perugia, per far capire un po' agli ascoltatori e alle ascoltatrici poi su cosa andate magari, come andate ad agire politicamente, non solo come Cobas, ma anche te come compagno e tutte le altre realtà di cui fai parte e che sono attive sul territorio perugino. A te la parola, raccontaci, vai un po' a schema libero, diciamo, va. Va bene, Francesco. L'Umbria è una piccola regione, non abbiamo grandi numeri, si tratta complessivamente di 900.000 abitanti e la crisi ha colpito duro anche qua. In entrambe le province, a Terni si sa, l'insediamento industriale più importante, sia sul chimico che sulle acciaierie. E qui nel Perugino il manifatturiero in generale, parliamo di cifre importanti per una regione così piccola, è diminuita la produzione, è diminuito il reddito da quando è iniziata la crisi ed è una situazione della quale ancora non si vede l'inversione assolutamente, e questo ha aggravato la situazione sociale. Tu considera che abbiamo circa il 15%, 15 e qualcosa per cento della popolazione che si trova in situazione di estremo disagio. Tu considera che ci sono 15.000 disoccupati, 23.000 cassi integrati, ci sono 22.000 persone che non, i cosiddetti NEET, che non stanno né in percorsi di formazione e di istruzione, ma che nemmeno lavorano o cercano lavoro, e ci sono 41.000 contratti precari. Questi dati ti danno un po' il quadro della situazione di sofferenza sociale che c'è in una regione che si vanta, si è sempre vantata e lo è stato nel passato di essere un po' il cuore verde d'Italia, ma che di questo non ha fatto effettivamente un modello su cui orientare poi tutte le politiche pubbliche, tant'è che abbiamo notevolissimi problemi anche proprio sul versante delle politiche ambientali, dell'uso del territorio, e Questo è un po' il quadro. Era una regione che aveva dei fiori all'occhiello, era una regione che aveva una tradizione di innovazione, di avanguardia. Per esempio, così, per esempio nel settore sanitario c'era la scuola di educazione sanitaria che era molto importante, la medicina preventiva del territorio, che era riuscita anche poi a tradursi in politiche sanitarie concrete, spazzate via dai processi di aziendalizzazione che hanno uniformato anche una piccola regione come questa alle tendenze generali. Senti, per invece quanto riguarda la città di Perugia, quali problematiche specifiche vivete nella vostra città? Ma le problematiche specifiche di Perugia, che è il capoluogo della provincia e della regione, è un po' la sommatoria del quadro regionale, e quindi tutti i problemi legati al lavoro, all'occupazione e tutti i problemi ambientali si concentrano anche qui a Perugia come riflesso di tutta la regione, di tutta la provincia. E nello specifico abbiamo problemi legati alla casa, abbiamo problemi legati alla socialità in generale, abbiamo i problemi legati a questo fatidico problema della sicurezza, ma sappiamo benissimo quali sono le speculazioni, i racconti che vengono fatti sul problema della sicurezza. E un'altra cosa di cui si vantava l'Umbria, ma che recentemente è stata abbastanza ridiscussa proprio perché influenzata da queste retoriche securitarie, è stata la sua capacità integrativa culturale. Saprai bene che a Perugia c'è una delle poche università italiane per stranieri, e sì, è stata una cosa significativa nel passato, anche perché ha dato, come dire, una dimensione cosmopolita a Perugia. E anche questo è una cosa che invece è stata lasciata un po' andare ed è ridotta ultimamente a pochissima cosa, non ha più quel respiro internazionale. Senti, Perugia ha una, fra le varie cose, ha una brutta fama, cioè parte del disagio giovanile. E io questo lo chiedo a te perché non ci sono praticamente mai stato se non di passaggio a Perugia, per cui è una cosa che io ignoro ma di cui ne sento parlare, e cioè la piaga della droga. Rispetto a questo cosa ci potresti dire? Ti posso dire che è vero, soprattutto negli anni passati addirittura c'è stata la città di Perugia quasi con ai livelli di primato nazionale per il consumo. Per il consumo della droga, per l'attività criminale di spaccio della droga. E è un fenomeno alla quale è stata data una risposta, sono state date sempre risposte parziali e che non hanno fatto, non sono partite da una progettualità, da un investimento culturale. Ci sono state risposte che hanno cavalcato il tema della sicurezza, ecco, cioè è stato un disagio giovanile inquadrato nel problema degli effetti sul tema della sicurezza, ma non sono state pensate e definite politiche di intervento serie, insomma, che andavano al cuore del problema vero, che è quello del disagio e non quello della sicurezza. E anche questo è un indice, del venir meno di una certa attenzione politico-culturale complessiva della società umbra, perugina in particolare, su questi temi sociali. Quindi vive un po' questo tipo, possiamo chiamarla, di impoverimento culturale. Certo. Viviamo un po' questo tipo di impoverimento culturale. Senti, ma dal punto di vista dell'attività politica, io ti dico sia come COBAS, quindi in merito specificatamente al conflitto sui luoghi di lavoro, ma anche in generale tutte altre battaglie e mobilitazioni che si possono portare avanti in città e in provincia, ti va di raccontarci qualcosa? Sì, mi va, sì, anche perché su quel versante qualcosa invece si muove. Io inizierei a parlarti dell'acqua, del problema dell'acqua, perché qua in Umbria c'è stato sempre un interesse molto forte sul problema dell'acqua pubblica, cioè delle battaglie contro la privatizzazione dell'acqua, e che hanno visto crescere il Comitato Umbro Acqua Pubblica sia prima all'inizio, quando si raccolsero le firme per la presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare, sia dopo, quando quando è stata impostata la campagna referendaria, prima con la raccolta delle firme e poi con la gestione del referendum del 2011 che ha avuto quel successo così grosso, no, di partecipazione e di risposta, ma che nei fatti è stato poi tradito successivamente dalle politiche assunte in materia. E su questo però i territori, il nostro anche col Comitato Umbro Acqua Pubblica, ha continuato a lavorare. Da un lato aderisce alla cosiddetta campagna di obbedienza civile, che in pratica chiede l'attuazione dell'esito referendario, e dall'altro, e quindi perché campagna che poi si riduce ad essere una campagna di autoriduzione delle bollette. Ecco, questo come si esplica? Si riesce a portare veramente avanti nella pratica? Sì, come no, si riesce a portare avanti nella pratica, ci lavoriamo da tanti anni, i numeri non sono eccezionali, perché la società umbra poi è caratterizzata da una forte pervasività del sistema politico, e quindi che si traduce in un immobilismo poi sociale anche, no? Certo. Quindi si fa molta fatica a fare breccia, però il tema dell'acqua è stato un tema che anche qui in Umbria invece è stato molto sentito. La campagna di obbedienza civile raggiunge qui da noi diverse centinaia di adesioni, ci stiamo lavorando da diverso tempo. Parallelamente c'è anche l'attività di tipo giuridico, di contrasto giuridico. Abbiamo fatto le battaglie legali, che sono tuttora in corso, di cui aspettiamo gli esiti, ma stanno nel quadro generale di ciò che succede in Italia sul problema della privatizzazione dell'acqua. Sì. Non so se posso approfittare per dire che proprio su questo tema abbiamo sentito la necessità da tempo di coinvolgere un po' tutti i comitati territoriali che resistono sui territori in Italia, sparsi in Italia, come facciamo noi qui, e in alcuni casi con numeri anche molto più superiori di adesione da parte della gente, per coinvolgerli tutti in una discussione e ponendoci il problema: ma noi questa battaglia sull'acqua pubblica contro la privatizzazione come la rilanciamo dalla questa esito nefasto successivo al referendum, pur vittorioso? E quindi abbiamo organizzato per il 9 e 10 maggio un convegno nazionale, interverranno quasi tutti i comitati territoriali che agiscono su questi temi, e metteremo a confronto poi anche le esperienze di ripubblicizzazione che ci sono state in Italia. L'unica in Italia che è quella di Napoli, con l'azienda speciale ABC Napoli. E verrà il presidente che è un esponente dei comitati locali della lotta sull'acqua pubblica, e anche verrà anche la ex vice sindaco del comune di Parigi, che ha progettato e gestito la ripubblicizzazione del sistema idrico a Parigi. Sì. Quindi cerchiamo di mettere a confronto queste esperienze insieme con le esperienze di resistenza sui territori, per cercare anche di capire come riscrivere questa battaglia contro la privatizzazione dell'acqua. E come continuare ad andare avanti anche, chiaramente. Esatto, sì, è come continuare ad andare avanti, speriamo che riusciamo a tirar fuori qualcosa. Sì. E poi poi esistono altre cose interessanti, sempre sul tema ambientale. Noi siamo interessati come territorio umbro perugino dalla questo famoso gasdotto Trans-Adriatic Pipeline, il tubone lo chiamiamo noi, che è il tubone che attraverserà tutto l'Appennino umbro, da Foligno fino alla Toscana. Se ti posso interrompere, questa è una variante, un pezzo che io di cui io personalmente non ero a conoscenza. La radio ha in parte, per quanto ha potuto, seguito gli sviluppi della vicenda per quanto riguarda l'approdo di TAP nel Salento, sulle coste adriatiche del Salento. Ecco, questo è il prosieguo poi invece di quello che deve essere il gasdotto dopo l'approdo sulle terre salentine, di quello che deve essere lo snodo attraverso la rete, diciamo, italiana sulla terraferma, diciamo, italiana. Sì, perché è un progetto che la parte italiana va dalla Puglia fino a Minervio, in Emilia Romagna, e attraversa tutto l'Appennino centrale. Ma infatti noi siamo in contatto, abbiamo fatto anche iniziative qui in Umbria, ma anche altrove, con gli altri comitati che nei vari posti si oppongono a questa opera. È una cosa di 687 chilometri da Massafra fino a in provincia di Taranto, fino a Minerbio in provincia di Bologna, e attraversa appunto tutto l'Appennino centrale. Sì, e noi siamo prima di Massafra c'è l'approdo alla rete SNAM di Mesagne, che è in provincia di Brindisi, Massafra invece è in provincia di Taranto. Prima ancora c'è il trasferimento dalla costa di San Foca, dalla centrale di depressurizzazione, fino alla rete SNAM di Mesagne, per cui forse è addirittura un po' di più di 687 chilometri questo gasdotto, quest'opera, diciamo. Sicuramente, sì. E considera che poi questo ha un impatto sui territori, proprio fisicamente, perché c'ha il tubone c'ha un diametro di 1,5 metri ed è interrato a 5 metri di profondità, e c'ha una servitù di pertinenza ai due lati di 40 metri complessivi, quindi c'ha un impatto notevole. Noi contestiamo l'opera in termini generali perché non capiamo la necessità dell'opera, visti i fabbisogni dichiarati dalla SNAM stesso, che sono inferiori rispetto a quella che sarà la capacità reale a regime, e quindi noi non capiamo perché c'è bisogno di questa cosa. Deduciamo ovviamente che la SNAM vuol fare della differenza, vuol fare o stoccaggio o soprattutto molto probabilmente vendita, quindi sostanzialmente profitti, ma noi siamo contrari anche perché appunto c'è questo impatto ambientale in regioni classificate a alto rischio sismico, tra l'altro, perché tutta la dorsale appenninica è a elevato rischio sismico, nello specifico nel tratto proprio dell'Appennino tra Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, su 28 comuni attraversati, 14, la metà sono classificate in zona sismica 1 e 14 in zona sismica 2, cioè parliamo di cose molto, molto importanti, insomma. E in più l'impatto ambientale perché proprio interferisce il tracciato con aree protette, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, aree contigue a parchi nazionali, e poi si sembra sovrapporsi il tracciato proprio a quello che è il progetto di quello che è l'APE, l'Appennino Parco d'Europa. Qui, impattano due logiche diverse, una logica speculativa legata all'uso del territorio a fini di profitti, con una logica invece del territorio come risorsa, e quindi qui si tratta di stimolare scelte di politiche pubbliche che vanno orientate in un determinato senso e non a creare questo tipo di confusione. Beh, scusami, stai facendo una descrizione che per me è assolutamente fondamentale, perché tu hai esordito dicendo che l'Umbria era un po' vista come la regione, no, verde, fra le più importanti da questo punto di vista d'Italia. Ecco, piccola parentesi, prima nella corrispondenza con il compagno di Terni è venuto fuori proprio questo, che comunque Terni è una piccola Taranto a causa dell'industrializzazione. Da tutte queste cose che ci dici, chiaramente viene ancora più fuori l'ipocrisia di un certo tipo di discorso e l'incoerenza, soprattutto con la destinazione di aree miglioramenti ambientali o comunque mantenimento di quello che è la natura, e dall'altro punto di vista anche lo sfruttamento che c'è di questi territori. Ecco, giù nel Salento, da quando è iniziata la mobilitazione, se così si può parlare, contro l'approdo TAP, uno dei discorsi che è stato fatto è quello che, siccome quelle zone sono a livello paesaggistico fondamentali, siccome sono di grande interesse turistico, non doveva approdare lì questo gasdotto. Chiaramente questo è un discorso che le persone che hanno compagni, comunque persone anche un po' più sensibili, che hanno la capacità di mettere in fila un ragionamento un po' più generale, un po' più complessivo, diciamo che l'osteggiano. Il problema non può essere che il sito deve essere, diciamo, turistico, cioè essendo turistico non può esserci lì l'approdo. Il tema è se quest'opera è inutile, e questo lo stavi dicendo chiaramente te, inutile in che senso? Che non migliora nessuna situazione dal punto di vista di abbattimento dei costi in relazione al fabbisogno di gas, e lo si vede che in Italia l'utilizzo di gas è costantemente in riduzione. Se il rischio deve essere quello di un impatto ambientale fortissimo, perché fare quest'opera in generale? Cioè non si può neanche dire magari la si fa da un'altra parte. Io volevo farti una domanda nello specifico, scusami questa breve digressione. Sì. E a che punto siete con un'opera di comunicazione, di, fra molte virgolette, sensibilizzazione delle popolazioni che possono essere colpite da quest'opera devastatrice? E qui faccio un'altra parentesi: è inaccettabile che si provi a far passare un gasdotto del genere in zone a così alto rischio sismico, posto che Salento non è zona ad alto rischio sismico, ma non è mai detto che non possa divenirlo. Qualche settimana fa negli Abruzzi, se non vado errato, c'è stato un disastro e un metanodotto è esploso, ha fatto feriti, e quindi sappiamo anche poi come vengono fatte queste opere in Italia. Per cui quello che ti volevo chiedere è: a che punto siete con la comunicazione e la sensibilizzazione nelle vostre zone, e quali sono le prospettive eventuali di una mobilitazione? Guarda, è da tempo che si lavora su queste cose, per cui l'attività informativa è stata abbastanza intensa ed è comunque continua, cioè si lavora molto sull'attività informativa, con le assemblee, con gli interventi sui territori di tipo informativo. Quello che si riesce molto più difficilmente a mettere in moto è una reazione capace di incidere. Non si riesce a mettere in moto il territorio in termini di consapevolezza che diventa azione e che si impone in qualche maniera o cerca di imporsi rispetto agli interlocutori istituzionali che devono poi decidere o scegliere. Questo ti ripeto perché qui, secondo me, nello specifico, io penso che ci sia un fattore specifico dei nostri territori, c'è questa società umbra molto molto pervasa dalla capacità del sistema politico di controllare direttamente o indirettamente un po' tutto, perché è chiaro, con una regione di queste entità, con questa economia così caratterizzata in questo particolare momento di difficoltà, il sistema politico, con la sua capacità di ramificazione e di pervasione anche delle attività direttamente le attività di tipo economico, riesce a controllare molto, e questo è un fattore che complica di molto la capacità della gente di reagire. Forse quello che si nota è una maggiore, è più una reazione così di tipo passivo. Si acquisisce l'informazione, si cerca l'informazione, si acquisisce l'informazione. Da questo punto di vista, nel nostro piccolo, riusciamo a offrire questo, a fare questo tipo di lavoro, ma poi si acquisisce un'attenzione di tipo passivo, non attivo. Ecco, quello che abbiamo molta difficoltà a mettere in moto è la capacità di reazione. Insomma. Diciamo che si ferma all'espressione di un'opinione contraria, possiamo dire così. Sì. E questo l'abbiamo visto anche, per esempio, su un'altra questione che proprio fisicamente attraverserebbe. Dico attraverserebbe perché recentemente sono stati fatti un po' dei passi indietro dallo stesso governo, tutto il territorio umbro, veramente tutto, da Orte, che è Orte e Lazio, ma insomma da Terni fino a attraversandolo tutto, parlo del raddoppio della E45, cioè l'autostrada Orte-Mestre, no? Sì. Che è di un impatto ambientale spaventoso, considera che attualmente il tracciato attraversa quasi o scorre parallelamente a centri storici importanti, delicati dal punto di vista dell'equilibrio paesaggistico, e sarebbe un'operazione proprio di sventramento del territorio. Anche questa che contestiamo per inutilità, perché tra l'altro basterebbe investire i soldi per fare un'ottima manutenzione della rete, della tracciato attuale. E poi perché ci sembra più una di quelle grandi opere che continua quella logica di impatto e di utilizzo sul territorio, di sfruttamento a fini privati a fini privati, perché questo poi sarebbe un progetto di finanza per cui ci sarebbero la partecipazione dei privati, ai quali poi sarebbe data in gestione per un arco indefinito di tempo. Ci sarebbe il problema poi dei costi di manutenzione, del problema del pedaggio, ci sarebbero tutta una serie di problemi connessi. Attualmente queste cose vengono fatte passare come progetti di finanza, rispetto alle quali ci sono i cosiddetti sconti fiscali. Ci sono una serie di incentivi progettuali, però poi nessuno prende in considerazione l'impatto sui territori di questa roba qui. Però su questo specifico punto dell'Orte Mestre, nell'anno passato abbiamo fatto anche diverse attività informative lungo proprio i punti più importanti, proprio i paesi che ti dicevo prima. Poi ospitammo la carovana che veniva da Ravenna, che andava fino a Orte, protestò lungo tutto il percorso con azioni di sensibilizzazione. Ti ripeto, su questo però recentemente sembra che il governo stia facendo un po', dando un po' uno stop, sembrerebbe proprio questioni molto, notizie molto molto molto recenti che sembra non sia più considerata un'opera fondamentale e quindi sembrerebbe un po', al momento almeno, derubricata. Non rientra forse fra le priorità delle grandi opere, visto che poco tempo fa, proprio forse anche in merito a questo, cioè ti riferivi proprio a questo, che pochi giorni fa c'è stata una sorta di rimpasto su quelle che sono le priorità delle grandi opere, sì. E il governo ha dovuto sceglierne alcune e metterne da parte tante altre. Sì, esatto, sì, a quello sì. Un'altra cosa per la quale anche approfitto del fatto per dire che sabato pomeriggio in centro a Piazza Italia è convocata una manifestazione presidio di tutti i comitati della zona della Montepeglia, che è una zona a confine tra le due province di Perugia e Terni, e che coinvolge anche diversi comuni della provincia di Perugia, Todi, Marciano ed altri, per lì, anche lì, contro un progetto di un impianto eolico, di produzione di energia eolica, che prevede l'installazione di 18 torri alte 150 metri. 18 torri alte 150 metri sul crinale del Monte Peglia, che è questa zona, con sullo sfondo, lato ovest, Orvieto, il Duomo d'Orvieto, no. Con sullo sfondo le torri eoliche di 150 metri. Anche questo sempre per valorizzare il patrimonio artistico e turistico e paesaggistico, diciamo. Esattamente, esattamente. Cioè tutta sta roba non si può più tenere insieme. Cioè non, bisogna imporre, avere la capacità, costruire la capacità di imporre strategie, di imporre progetti che acquisiscano come definitivo e unico il tema della tutela e della salvaguardia del territorio. E non si possono conciliare questo con poi questo tipo di progetti, perché diventa una contraddizione in termini. Sappiamo benissimo che questi vengono sfruttati, è una impostazione di tipo privatistico finalizzata alla creazione di profitto, insomma. Senti. A danno dei beni comuni. Senti, per non rubarti troppo tempo, cioè, chiaramente ognuno ha impegni anche impellenti, vorrei, a chiosa di tutta questa chiacchiera che ci siamo fatti, vorrei proporti un ragionamento, e con te mi viene anche più facile, nel senso che tu, essendo inquadrato in una struttura sindacale, per cui anche assolutamente sensibile, diciamo, al conflitto sui luoghi di lavoro, dal quadro che ci è fatto della regione Umbria mi viene fuori quello che può essere una sorta di quadro anche di riferimento di tutto il paese italiano, perché queste opere che hanno un grosso impatto negativo sull'ambiente sono diffuse in tutto il territorio nazionale. Ecco, fatti salvi i meccanismi di accumulazione di capitale sui luoghi di lavoro tramite tutta una serie di contratti, riforme, annichilimento dei diritti dei lavoratori, fatto salvo questo, c'è una riflessione forse da fare, cioè che negli ultimi anni il capitale italiano soprattutto, ma anche di comune accordo con quello internazionale, sta dando la priorità a opere che hanno impatto ambientale, che noi giustamente diciamo che sono di devastazione ambientale, per continuare ad accumulare profitti. Ecco, forse andrebbe fatto un ragionamento insieme, che metta un po' da parte quella che un po' è spesso è stata una retorica da parte di tanti compagni e compagne, cioè che i movimenti ambientali alla fin fine non vanno ad aggredire quelli che sono i punti cardini del capitalismo. Tu come la vedi in questo senso? Perché secondo me, personalmente, ma è una opinione anche molto superficiale che ho al momento, c'è da considerare, ci sono da considerare tutte queste opere come assolutamente centrali per lo sviluppo del capitalismo italiano. Sì, io penso che la questione ambientale è pienamente oggi dentro la discussione sul capitalismo. Cioè noi è oramai evidente a tutti che l'ambiente, le risorse dell'ambiente sono aggredite per essere messe a valore, a produzione in termini di creazione di profitto. E questa quello che manca ancora è la capacità di tradurre questo anche sul versante, le ricadute che questo ha sul versante del lavoro, perché noi siamo ancora vittime di una contraddizione che ci portiamo dietro, che è quella che porre una questione di tipo ambientale, questa è la cosa dalla quale dobbiamo emanciparci, significa molto spesso fare una battaglia contro il lavoro. Perché significa, per esempio, adesso Terni è evidente a tutti, mi ricordavi tu che appunto ne avete parlato con i compagni di Terni prima, ma lì è evidente, Taranto ancora di più, ma voglio dire, adesso è così evidente dappertutto l'impatto di tipo ambientale dei grossi insediamenti produttivi, che non è più rimandabile mettere in discussione, ragionare su questa centralità che oggi assume la questione ambientale nel sistema di accumulazione del capitale in Italia, ma anche in generale. E qui però bisogna essere capaci di far fare poi un passo avanti al ragionamento, anche se il ragionamento va avanti se va avanti il conflitto. Cioè noi possiamo imporre costruire e imporre una nuova visione, interpretazione e lettura di questa cosa, di questo binomio, di questo che non è più un binomio, di questa cosa che sta insieme tutta dentro al problema del capitale, se però abbiamo una capacità di rapporti di forza reali. Cioè quello che ci manca è ancora una consapevolezza, ma ci manca ancora molto di più una capacità di costruire conflitto. Da questo punto di vista i territori rimangono un ambito dimensionale, così una dimensione importante, ma ancora molto limitata. Sì, e secondo me deve essere sviluppato, ci deve essere lo stimolo assoluto a sviluppare questo tipo di ragionamento. E io sono d'accordissimo con te che arrivati a un certo punto, se non avanza il conflitto e quindi non si avanza anche su un piano di rapporti di forza, è difficile anche comunque sviluppare un ragionamento in questo senso. Però ecco, era proprio questa la domanda che ti ponevo e devo dire io mi trovo assolutamente d'accordo. E detto questo, se ti va di aggiungere qualcosa, se ci siamo dimenticati di raccontare qualcosa di ciò che avviene nel territorio perugino. Sì, mi piacerebbe, guarda, raccontarti di un'altra cosa che è un piccolo segnale di quello che potrebbe essere invece una capacità di costruire conflitto, comunque di tradurre in azioni concrete il conflitto, diciamo. Ed è una cosa che sta andando avanti da un po' di tempo qui in Umbria, nella provincia di Perugia, che è la storia di Caicocci, che è una zona del comune di Umbertide dove c'è una tenuta che è un bene demaniale della regione Umbria, che nel passato l'ha sempre, come dire, l'ha vista come una, ne ha fatto un uso privatistico, insomma, prima spendendo fondi pubblici per ristrutturarla, per valorizzare il posto dal punto di vista anche degli immobili che c'erano, creando una serie di impianti sportivi, cioè avendo comunque in mente un certo tipo di sviluppo di quel, di quella, di utilizzo di quella, di quel sito. Poi invece è stata completamente abbandonata, sono 190 ettari con 18 fabbricati già ristrutturati, stalle eccetera, altre strutture, è stata completamente abbandonata dal 2010 e oggi invece si è messo in moto un movimento di che si chiama Caicocci Terra Sociale, dove è iniziata questo tentativo di custodia sociale contro la privatizzazione, di fatto comunque lo sperpero di una, di un bene demaniale, di una terra pubblica, e dove si stanno sperimentando progetti di agricoltura sostenibile, un rilancio dell'artigianato tradizionale, l'utilizzo delle energie in maniera sostenibile, per l'autoproduzione, per l'autosostentamento. Ed è una piccola esperienza pure questa, di però importante, perché sta resistendo, perché poi ci sono i tentativi di metterla in discussione, di reprimerla, proprio anche da un punto di vista così, perché c'è stato un episodio in cui la Regione Umbria ha denunciato tre tra ragazzi e ragazze che stanno facendo da tempo questa storia, questa custodia sociale, perché avevano preso parte all'occupazione appunto di queste terre di Caicocci, con le accuse di danneggiamento, appropriazione indebita, fini speculativi, l'occupazione violenta, clandestina di un bene pubblico. Cioè, tu capisci, noi abbiamo un ente pubblico che ha sperperato risorse pubbliche su un bene pubblico e che denuncia tre ragazzi per danneggiamento, appropriazione indebita a fini speculativi, quando lì invece, cioè, capisci, questi sono i paradossi. Però questo è un piccolo esempio di resistenza e di, nel suo piccolo, di costruzione del comune, cose che andrebbero messe un po' in rete e valorizzate anche, vabbè. Secondo me, per quanto piccola possa essere questa esperienza, secondo me nell'arco di questa mezz'oretta di chiacchierata abbiamo messo in fila tutta una serie di ragionamenti che secondo me tengono dentro tutto, perché da un lato abbiamo parlato di un conflitto da provare a portare avanti nei luoghi di e negli spazi di accumulazione di capitale, non abbiamo trattato la tematica del lavoro perché chiaramente evidentemente c'è una difficoltà in atto, ma nella telefonata precedente con i compagni di Terni l'abbiamo fatto, e quello è un punto. Chiaramente abbiamo parlato l'opposizione alla devastazione ambientale, e quello è un altro, cioè il conflitto vero e proprio, no? Di non solo difesa ma di attacco rispetto alle condizioni materiali attuali, e quindi di provare a conquistarne di nuove e di migliori. Ma c'è anche un altro punto, che è questo proprio di cui parlavi tu ora, cioè della costruzione invece di nuovi processi che siano organizzativi, che parlino di democrazia dal basso, quindi diretta, e che tramite questa si mettono in campo delle esperienze nuove di economia alternativa, di fatto si può dire, al capitalismo. E in questo chiaramente il conflitto non è una cosa a parte, perché il conflitto avviene laddove lo Stato poi viene a rivalersi di quello che giudica una sua proprietà, per cui anche dal punto di vista di una concezione del conflitto è una concezione abbastanza ampia e complessiva che tiene dentro tutto, per cui questa esperienza, ripeto, per quanto piccola sia, e mi piace, cioè, sono d'accordissimo col tuo spirito, cioè bisogna metterle in rete tutte queste esperienze, secondo me è fondamentale per iniziare a immaginare un movimento che sia sì di opposizione ma anche di costruzione immediata di alternative, che quindi possa proporsi come un'alternativa sistemica. Chiaramente stiamo parlando di piccole esperienze, i passi da fare sono tanti e occuperanno mesi, anni di lavoro, ma a mio avviso, una mia opinione sicuramente personale, però questa è la strada un po' da provare a camminare, diciamo. Sì, sono d'accordo, Francesco, forse mesi, anni, forse anche qualche generazione, purtroppo, però perché partiamo da un livello molto basso, diciamo, però bisogna resistere, inventare, provare, costruire, mantenere posizioni, cercare di rilanciare. Va bene, senti, io sono veramente contento di aver fatto questa chiacchierata con te e spero che potremo risentirci in un futuro anche prossimo per capire eventuali sviluppi di tutte le mobilitazioni di cui ci hai parlato e in generale io vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie, io ringrazio voi e ci farebbe piacere che magari così potessimo riparlarne, soprattutto per vedere i passi avanti fatti. Certamente, non mancheremo. Va bene, buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao. Ridi, ridi. Ti cucirò la bocca. Ti cucirò la bocca con un filo spinato. Smetterai di ridere. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi lamento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi lamento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoliti di china su un foglio stamattina, la luna che si inchina all'orizzonte prenestina, mina la rassegnazione, notte in sonne con l'aurora sorgerà l'ispirazione, notte insonne alla malora. Ha solo 20 anni, al suono dell'hardcore fai danni inarrivabile a quegli occhi, unlocking ingeri con smoky sciocchi, viveri da shopping per le working class, pochi fatu incantati dalle labbra come cobra dei flauti. Semi lamento, semi al vento per raccogliere tempesta, tante storie questa resta senza una parvenza onesta. Parlami di fuoco e fiamme, ho solo una richiesta, tu parlami di fuoco e fiamme, non di fare festa. Aspetterà un germoglio intanto, non si limita al cordoglio quando inizierà la caccia da uno scoglio al mare aperto. Agap, solo contro il capo d'olio. Agap, voglio ste epitazio sulla tomba quando muoio. Verrà con un rasoio in mezzo ai seni, fulgidi tra turbini e inquietudini, tra sogni e magnitudini. E tu ti neghi e te ne freghi se neghi un sorriso, solo un solco sul tuo volto, solo un calco del tuo viso. Sorrisi che neghi da dietro, un doppio petto, un doppio vetro. Sintetizzatori fai da te per l'occhio, pure cerca di un impiego. Non tratto con l'impero, in guerra scivo a Piero, non spegni le fiamme, fuoco, prego. Buttano in gatta buia, rieducazione cavallo di Troia. Rinserimento alla gogna mentre distruggono l'uomo che sogna. Sorelle sepolte, sono già morte, della bella antica nella stessa sorte. Murate vive dentro le celle, costrette a guardare la luna tra sbarre. 100.000 guerre, 1.000 ancora contro di voi bastardi. Le scintille al filo delle lame se domani è tardi. Poca luce fioca nella mia mano, candela di cera, mentre cerco le risposte in fondo a questa polveriera. Mezzanotte e mezza aspetto, l'orrido verdetto verta monito. Ultima colonna ti devasta il centro storico. A luna, spuma nella bruma all'ombra della luna, ma la sola cura son poesie per la sua bruna e suda di continuo se dalla biro poi nasce un respiro fino all'uomo che non contento dell'uva inventa il vino, da voce al moscerino tra le mosche in piazza cuoce calda arrosta sul tuo Porsche Boxster. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi lamento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi lamento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. E allora torniamo in onda con questa puntata di In Giro per l'Italia, andiamo a concludere, facciamo l'ultima delle corrispondenze, purtroppo ne avremmo volute fare almeno due di più ma non c'è stata la possibilità di metterci in contatto con altri compagni e scendiamo, torniamo di nuovo un po' più a sud nella provincia di Terni e andiamo a Orvieto, abbiamo in collegamento un compagno del Centro di Documentazione Popolare, ci senti? Sì, ciao, ciao a tutti e a tutte. Perfetto, benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa e niente, io direi di fare come sempre. Orvieto è un paesino di, se non sbaglio, correggimi tu, 20.000 abitanti e qualcosina accennava già poco fa il compagno di Perugia su un'opera che è definita di devastazione ambientale e paesaggistica e dir poco, ma al di là di questo quello che ti chiederei è che situazione c'è economica, sociale e politica lì da voi a Orvieto e se vivete qualche problematica specifica rispetto alla generalità della regione Umbria. Ma ad Orvieto diciamo che siamo in linea, ahimè, con la crisi economica generale e anche regionale. La regione Umbria è una piccola regione che non arriva a 1 milione di abitanti, siamo poco più di 800.000 persone. E nonostante ciò ci sono decine di migliaia di cassi integrati e il comparto industriale è circoscritto a poche, a pochissime città. La zona di Orvieto è da sempre una zona, diciamo, a carattere, l'economia del territorio è quella a carattere agricolo e turistico, prodotti tipici chiaramente, poi il turismo legato alla zona, alla storia della città. La parte, diciamo, legata alle aziende, alle industrie vere e proprie è molto piccola, non tieni conto che l'azienda più grande, diciamo, del territorio del comune conta 60-70 dipendenti. Se dobbiamo essere ancora più precisi, parlo di aziende private, per farti rendere l'idea, la realtà che conta invece il maggior numero di dipendenti è una cooperativa sociale che ne ha 150-160 e che si occupa di servizi di carattere sociosanitario. Questo la dice lunga, insomma, su quello che è il tessuto economico e produttivo della zona. Le difficoltà che si vivono, come hai detto tu e come accennava il compagno di Perugia, ultimamente sono legate molto a progetti di devastazione del territorio, perché altro non sono, cioè sono quei classici progetti che vengono presentati da aziende private ai comuni locali soltanto perché alle spalle hanno gli incentivi dei fondi europei, i cosiddetti certificati verdi, e mi riferisco a parchi eolici, mi riferisco a impianti a biomasse e così via. È un momento questo in cui c'è un attacco su più fronti, nel senso che quando parliamo di Orvieto in realtà noi ci riferiamo non soltanto al comune che conta appunto poco più di 20.000 abitanti, ma a un comprensorio un po' più vasto che, inclusi i piccoli comuni del comprensorio, arriva a un 40.000 persone circa. Legato peraltro anche molto all'Alto Lazio e a Roma stessa, perché considera che nel nostro territorio c'è qualcosa come 1 migliaio di pendolari, gente che vive in zona e viene a lavorare tutte le mattine a Roma, proprio perché localmente, insomma, le possibilità sono quelle che sono. Detto ciò, come piccola realtà, noi siamo un'associazione culturale che si chiama Centro di Documentazione Popolare e che nasce nel 2008 sulla scia delle attività del Comitato Cittadino Antifascista, allorché, un po' come in tutta Italia, anche localmente ci fu un tentativo di Forza Nuova di aprire una sede proprio in un comune del comprensorio e non ad Orvieto, tentativo che autoimploso, diciamo, nel giro di 6 mesi per ragioni interne loro, e in quell'occasione si sono ricompattate una serie di soggettività, compagni, compagne che si conoscevano da tempo ma che erano un po' sparsi, diciamo così. E su questo collante dell'antifascismo si è nuovamente creato un dialogo costruttivo che ha portato alla costituzione di questa associazione, che non a caso è un centro di documentazione perché appunto vuole mettere insieme tutta una serie di notizie e diffonderle chiaramente in vario modo, a partire dal nostro sito internet che è www.cdporvieto.org. E poi con i classici mezzi, comunicati stampa, iniziative, presentazioni di libri, cineforum, ogni tanto qualche spettacolo teatrale e così via. L'associazione si occupa appunto di temi legati al sociale prevalentemente, seppure, ripeto, siamo partiti trattando di temi di carattere più che altro storico. E poi siamo stati, come dire, abbiamo dato il nostro contributo quasi da subito a vertenze territoriali, regionali e nazionali, vedi ad esempio il referendum sull'acqua pubblica, e nel tempo questo percorso ci ha portato anche a far sì che dove oggi c'è la sede della nostra associazione, a 2 passi da Piazza della Repubblica, dove è il comune, ad Orvieto, in via Magalotti, oltre alla sede dell'associazione e del comitato antifascista, nel tempo diciamo si è formato un altro piccolo gruppo di persone che ha dato vita ai comitati di base locali aderenti alla Confederazione Cobas, e quindi presso la sede c'è anche la sede dei Cobas dell'Orvietano. che piano piano stanno cercando appunto di costruire qualcosa di concreto sul territorio, dialogando con lavoratori di vari settori, in primis il comparto scuola, dove da sempre il COBAS è più presente, ma piano piano insomma stiamo facendo appunto incontri, riunioni con diversi lavoratori di diversi settori, ed è una piccola realtà, ancora la nostra, che conta poche decine di iscritti ad Orvieto, ma insomma piano piano cresce, in realtà per ben poco merito nostro, nel senso che noi lavoriamo, siamo lavoratori come gli altri appunto, che cerchiamo di dialogare con altri lavoratori che vivono le nostre difficoltà. Non è tanto per merito nostro, perché appunto le politiche che poi portano anche a progetti di devastazione del territorio come quelli di cui ti parlavo, sono le stesse in ambito lavorativo che da sempre vengono, da almeno 25 anni, anche 30, vengono avallate dalle sigle confederali, diciamo, nazionali, la triplice in particolare, CGIL, CISL, UIL, e che anche localmente purtroppo non ha salvato un bel niente, non ha tutelato, nonostante clientelismi e nepotismi, nessun posto di lavoro. E storicamente, in un territorio che ha una tradizione quantomeno culturale, diciamo, di sinistra, c'è stata anche una parentesi di governo al comune di centrodestra, che è durata 5 anni ed è terminata, che deriva anche quella appunto dallo sfacelo di quello che è il centrosinistra locale e anche delle politiche del centrosinistra locale. E appunto a livello sindacale, in vari luoghi ormai tanta gente non crede più alle promesse e alle favole, perché appunto quotidianamente tocca con mano quelle che sono le difficoltà di tutti i giorni, che le promesse infinite di consiglieri regionali, parlamentari eletti in loco, cose del genere, appunto non sono più in grado di soddisfare. E quindi forse appunto siamo in una fase in cui c'è modo di dialogare di più rispetto a 10-15 anni fa, con persone che magari si sentivano il posto di lavoro assicurato solo perché si rivolgevano sempre, ecco, al referente politico di turno, e oggi in piena crisi, crisi economica e crisi politica e culturale, per come la vedo io, tanta gente appunto non sa più a quale santo votarsi, si rende conto che appunto siamo sempre di più tutti nella stessa barca, e quindi si avvicina anche a quelle che, alle istanze che noi proponiamo, che non sono niente di che, perché partiamo dalla base, insomma, dal rispetto dei diritti sui luoghi di lavoro e così via, per quanto, diciamo, oggi questo è possibile, viste le decine di tipologie di contatti. Allora, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e abbiamo ristabilito il collegamento con il compagno di Orvieto, e prego, a te di nuovo la parola, ricominciamo da dove avevamo lasciato. Sì, niente, eravamo appunto arrivati un po' a descrivere in linea generale quella che è la situazione che a Orvieto viviamo, e nel nostro piccolo, ripeto, presso la sede si sono concentrate negli anni una serie di piccole realtà fatte insomma di poche decine di persone che comunque periodicamente si vedono e si organizzano, e come dire, mentre noi stessi approfondiamo determinati argomenti, spulciamo progetti che vengono presentati, come quello cui si faceva riferimento prima sul progetto di creazione di un parco eolico sul Monte Peglia, che è una montagna vicina ad Orvieto, la montagna degli Orvietani, 18 torri alte 130 metri che andrebbero a deturpare un'area peraltro anche diciamo interessata da un'area protetta regionale, e così via. Ecco, questo per fare solo un esempio, cioè noi, come dire, ci vediamo, valutiamo insieme, riflettiamo su tutto questo e cerchiamo chiaramente di darne conto alla popolazione, alla cittadinanza, rispetto a quelli che a nostro avviso sono i rischi che portano determinati progetti su un territorio. Per fortuna ultimamente abbiamo visto che anche nei comuni del comprensorio la gente, come dire, un po' si comincia ad organizzare, si sveglia, si documenta, e prima di accettare in ogni caso un progetto che appunto come quello dell'eolico oppure delle impianti a biomasse viene presentato come la panacea di tutti i mali occupazionali, che porterà a posti di lavoro e così via, per fortuna diciamo vediamo che la gente piano piano prende coscienza di questo, magari appunto perché siamo arrivati al fondo delle questioni, e si organizza, costituisce comitati territoriali e rimanda al mittente, in primis ai sindaci dei piccoli comuni, diciamo l'accettazione di certi progetti, perché i sindaci spesso sono appunto strozzati dai bilanci in difficoltà dei comuni, e quando arrivano aziende con i soldi cash in tasca, appunto dai certificati verdi dell'Unione Europea, è difficile dire di no. Su questo, diciamo, ci rendiamo conto che per un amministratore di un comune locale che deve far quadrare i bilanci, tutto questo è difficile. Però è anche vero che non si può pensare, ripeto, di impiantare qualcosa che rimarrà sul terreno per almeno 20-25 anni senza sentire il parere della popolazione, che per fortuna, ripeto, è sempre più informata. Ecco, e noi cerchiamo di dare il nostro contributo in questo senso. Ecco, infatti io ti volevo chiedere questo, perché chiaramente portare avanti un'attività sì culturale, ma magari anche con intenzioni politiche in un paesino, di fatto, perché questo è come Orvieto nel comprensorio, non è facile. Ci sono delle problematiche, chiaramente una vita un po' differente rispetto a quella di una città anche piccola, magari di una metropoli, e le persone forse magari, ecco, hanno bisogno di vedere quelli che sono non solo i problemi reali, ma eventualmente anche quelli che sono i nemici, cioè chi gli impone determinate misure, e questo spesso manca nei centri più piccoli. Però quello che ti volevo chiedere è, da questo punto di vista, sia per questo piano che tu parlavi di queste 18 torri, ma non solo, magari su altre opere di serio impatto ambientale o in generale in altre mobilitazioni che voi provate a portare avanti o su cui provate a comunicare, qual è la risposta, non solo in termini di opinione ma di volontà di attivazione da parte delle persone? Ma guarda, come hai detto giustamente tu, in una piccola realtà, spesso in una città grande come Roma, ci si rende conto difficilmente di quello che vuol dire muoversi nelle nostre zone, nel senso che il territorio piccolo e la popolazione limitata, in teoria, no, dovrebbe forse facilitare la nostra politica territoriale, le nostre comunicazioni. In verità c'è un risvolto, diciamo, di questa medaglia che è abbastanza negativo, che è quello che quando si vive in una città che è poco più che un paese, perché 20.000 abitanti, di questo si tratta, le dinamiche sono quelle della provincia e del paese locale, di conseguenza ci si conosce tutti abbastanza, di conseguenza chi amministra, chi occupa posti di potere ha il ricatto subito pronto rispetto a chi magari si espone e dice di no a progetti come questi, e lo dice anche in maniera forte, per tutelare la salute dei propri figli, per tutelare il territorio, nel caso delle biomasse e dell'eolico. E per quanto mi riguarda, per l'esperienza di questi anni, conoscendo appunto un po' il territorio, visto che io sono proprio di qui, secondo me questo è lo scoglio principale, cioè ragionare con la gente e cercare di fargli superare queste paure, perché, ripeto, in tempi in cui c'è tanta fame di lavoro, magari l'amministratore locale o l'azienda che presenta uno dei progetti che abbiamo visto prima ha, ripeto, in mano sempre il ricatto pronto della serie: tu non mi rompi le scatole su questo fronte, io magari cerco di sistemare te o il tuo figlio o la tua compagna, diciamo, da qualche parte a lavorare, no? Viste le difficoltà. Quindi questa è la difficoltà maggiore, quella di esporsi, cioè in un territorio piccolo come il nostro esporsi è la difficoltà maggiore, perché sono cose che poi tu paghi quotidianamente ogni volta che entri in un ufficio pubblico, ogni volta che chiedi un documento e per te è sempre in fondo, diciamo, al cassetto, cose di questo genere. E te lo dice uno che da 11 anni lavora in proprio nel settore agronomico e forestale, e ti assicuro che spesso e volentieri, per quanto mi riguarda, è così, ma non solo per me chiaramente, per tanta altra gente che come me appunto si espone su questo fronte. Un altro limite, secondo me, dei nostri territori, dei territori piccoli come il nostro, è il fatto che la politica locale in Italia e ovunque, anche qui da noi, ha abituato la gente ad essere assistita. Di conseguenza le persone hanno, debbono avere sempre qualcuno di riferimento cui andare a rivolgersi, e raramente si auto-organizzano, come nel nostro caso e come cerchiamo di far capire. Questo è un problema, perché appunto anche tanta gente che è passata presso la nostra sede, per esempio durante la vertenza per l'acqua pubblica, durante il referendum prima e dopo, veniva unicamente a chiedere informazioni, ma raramente partecipava alle nostre riunioni che magari organizzavano un banchetto informativo o cose del genere. Ti vedeva un po' come quasi uno sportello informativo, poco di più, come se andasse appunto in comune o dal CAF del sindacato. E questo è il secondo problema, che appunto c'è in territori piccoli come il nostro, per poter portare avanti determinate vertenze. Per fortuna Orvieto ha, diciamo, un pregio, quello di essere ben collegato, quello di essere questo piccolo lembo di Umbria che ha il Lazio a portata di mano e la Toscana poco distante, quindi diciamo anche a livello di comunicazioni siamo a metà strada tra Roma e Firenze e vicinissimo anche a Terni, e ad esempio sul versante ternano ci sono compagni che da tempo stanno lavorando bene su quello che è il discorso rifiuti, e non è una cosa distante da noi, perché ad esempio alla discarica di Orvieto, dopo la chiusura di alcuni inceneritori nella piana di Terni, attualmente arrivano da un po' di anni a questa parte i rifiuti di tutta la provincia di Terni. Quindi diciamo le vertenze territoriali sono collegate e vanno collegate necessariamente anche le lotte e le opposizioni a progetti come questi. Beh, certamente, per esempio chiacchierando con gli altri compagni prima, soprattutto il compagno di Perugia, ecco, evidenziava come uno dei problemi principali della vostra regione è quella che io interpreto dalle parole del compagno, provo a definire come una sorta di politica clientelare. Ecco, questo poi si traduce anche in una regione che io suppongo essere a maggioranza fra tantissime, virgolette, rossa, nel senso di una certa tradizione, che però questo rosso non è più rosso, si è trasformato in qualcos'altro, ma quelle che sono rimaste sono le strutture burocratiche di clientela che il Partito Democratico ha ereditato da ciò che veniva prima di lui, e che questo continua a imporsi e quindi agisce non solo come imposizione sul territorio di certe dinamiche, ma come fattore di annullamento anche solo all'inizio di probabili istanze di rivendicazioni o di opposizioni. Ecco, io credo che dal tuo discorso traspare un po' anche questo, no? E soprattutto magari anche tarato e centrato su quella che è la situazione di un paese di 20.000 abitanti e di un comprensorio di 40.000. Sì, no, ma l'eredità politica di cui tu parli è realtà. Il PD, il Partito Democratico, non è che viene dal nulla, sono, ripeto, le evoluzioni, o sarebbe meglio dire le involuzioni del dopo PC e poi PDS e poi DS e così via, per arrivare alla situazione che viviamo oggi in tutta Italia, anche dalle parti nostre. È la stessa politica che ha portato, nel caso della nostra città, alla sconfitta elettorale di questa gente e al primo governo di centrodestra che la storia di Orvieto ricordi nel dopoguerra, che è terminato circa un anno e mezzo fa. Non è un caso se il comune di Orvieto sia attualmente l'unico comune dell'Umbria in predissesto finanziario, cioè nei 5 anni di amministrazione di centrodestra, che hanno giustamente cavalcato un'onda negativa che era l'immane debito di bilancio che le precedenti amministrazioni di centrosinistra avevano creato, l'hanno cavalcato ma non sono chiaramente riusciti a risolverlo, e quindi hanno concluso i 5 anni di amministrazione di centrodestra semplicemente dicendo: non siamo riusciti a risolvere in bel niente, dobbiamo dichiarare il predissesto altrimenti arriva il commissario prefettizio. Questo significa che per i prossimi 10 anni il comune di Orvieto ha un bilancio che non parte da zero, ma parte da meno una certa cifra che ogni volta va recuperata chiaramente sulle tasse dei cittadini, sul taglio dei servizi e così via, perché altrimenti è come quando tu paghi un mutuo, in questo caso paghi un debito che tu hai un po' alla volta per 10 anni. E questo chiaramente strozza lo sviluppo del territorio generalmente. Su questo si inseriscono i progetti di cui abbiamo parlato poco fa, ripeto, che vengono apparentemente da soggetti privati, in realtà spesso in combutta con parti politiche di vario tipo, che avendo i soldi in tasca pretendono di venire sui nostri territori e dire: ok, domani qui facciamo una bella centrale a biomasse e diamo lavoro a 10 persone, oppure l'impianto eolico e devastiamo un comprensorio e così via. Quindi questa è la situazione dell'orvietano, se vogliamo anche un po' più critica rispetto ad altre, perché non è che a Perugia o Terni se la passano bene, a Terni con l'acciaieria, a Perugia magari con la Nestlé perugina. Però, da sempre storicamente sono realtà legate a un tessuto industriale, cosa che dalle parti nostre non c'è. Certo. e quindi siamo molto legati a quello, per quello siamo molto attenti, dovremmo essere, questo cerchiamo di dire ai nostri concittadini, più attenti al nostro territorio, perché da sempre la ricchezza di Orvieto e Comprensorio è il suo territorio, il paesaggio, la natura, le produzioni tipiche, il vino, l'olio e così via. E invece, ripeto, ci sarebbe chi come dire, vorrebbe trasformare questo territorio in tutt'altro. Non è un caso, per quello dico che spesso queste aziende private non vengono dal nulla, non sono marziani, se a capo di una delle aziende che vuole realizzare l'impianto a biomasse di cui si parlava c'è un ex sindaco della città che nel frattempo, diciamo, non ha avuto fortuna nella sua carriera politica, voleva fare il parlamentare ma non gli è riuscito perché i suoi stessi compagni di partito dell'Umbria e altre zone gliel'hanno impedito, e quindi si è dedicata all'imprenditoria, diciamo così. E ha la sua storia molto negativa anche come sindaco, tanto che è stato anche inquisito per esempio per la questione della discarica di Orvieto, quando a suo tempo vennero dalle nostre parti delle cosiddette ecoballe dalla Campania in accordo con l'allora presidente della regione Bassolino, che probabilmente molto eco non erano. Ci fu un'inchiesta della magistratura, della discarica di Orvieto ne parla anche Roberto Saviano in alcuni suoi scritti. Questo sindaco fu inquisito, dopodiché insieme ad altre persone il reato è caduto in prescrizione e quindi, come dire, arrivederci, grazie. E oggi si ripresenta sotto altre forme l'imprenditore del settore. Diciamo una persona a modo comunque. Però una bella personcina, come si suol dire. Però chiaramente a tuttora uno ha avuto il coraggio di andare a una recente assemblea che c'è stata nel comune di Castelviscardo, dove vogliono realizzare questa centrale, di presentarsi davanti alla platea nutrita, che per fortuna è bella compatta e contraria a questa realizzazione, e ha fatto arrabbiare chiaramente il sindaco, e ha avuto il coraggio questo signore di andare a dire che non era quello il modo di parlarne, perché non c'era contraddittorio e lui chiaramente preferisce altri canali, quelli di parlare direttamente con i sindaci e andare diretto, come dire, alla realizzazione di quello che gli interessa. Però questo è soltanto un esempio, ecco, queste più o meno sono le dinamiche che si sviluppano su questo territorio, e in questi termini diventa difficile appunto avere a che fare con le persone che hanno chiaramente molto timore di esporsi, finché poi sul loro luogo di lavoro non toccano con mano quello che è l'arroganza, il ricatto quotidiano, e allora forse si rendono conto, ripeto, che stiamo tutti più o meno allo stesso livello e, come dire, ci riconosciamo in questo, e allora forse si riesce anche a ragionare e ad auto-organizzarsi per difendersi in questo senso. Certo, senti, io ti volevo chiedere prima di salutarci se bolle qualcosa di nuovo in pentola e se sentite la necessità di allargare il vostro spazio di azione su altre tematiche, altri problemi che vivete rispetto a quanto ci hai detto fino ad ora. Allora, guarda, ci sono delle iniziative in programma, una di carattere regionale proprio per fermare questo progetto di 18 torri eoliche sul Monte Peglia, che ci sarà a Perugia sabato 18 alle ore 17:15 circa. Ci sarà comunque un presidio lungo Corso Pannucci con un volantinaggio che in verità non riguarda appunto solo il parco eolico, ma che si vuole realizzare, ma appunto si vorrebbe un po' diffondere tra la gente quelle che sono le problematiche legate agli inceneritori che stanno a Terni, gli impianti a biomasse che vorrebbero fare un po' ovunque, il geotermico, di cui non abbiamo parlato, che è un'altra questione che da tempo viene spinta sempre da privati in un'altra zona qui del nostro comprensorio e che per fortuna forse non troverà vita facile, anche se anche quella tempo fa sembrava una cosa morta e sepolta, in verità insomma questi tornano alla carica perché giustamente gli rode un po' non poter realizzare quello che volevano fare, e così via. Per tornare, io conosco bene l'argomento, ce ne siamo occupati a lungo a livello locale e anche a livello regionale, grazie al comitato regionale e in particolar modo ad alcuni compagni di Perugia, dell'acqua pubblica, perché il referendum che ha portato 27 milioni di italiani a votare appunto in un certo modo e a pretendere che l'acqua torni ad essere gestita in un certo modo e non certo per far lucrare i soliti noti, c'è stato, come tutti sanno, totalmente scippato. Noi tra l'altro, per esempio, in provincia di Terni attualmente paghiamo la terza acqua più cara d'Italia, questa è una statistica nazionale, E ecco, nonostante questo, ripeto, c'è difficoltà a portare avanti queste istanze. Quindi, dicevo, sabato c'è questo presidio lungo Corso Pannunzio a Perugia. Nel nostro piccolo, i primi di maggio, non è ancora confermata, ma dovrebbe fare un'iniziativa qui ad Orvieto presentando le attività, un libro che tratta della rete Genuino Clandestino, cui alcuni di noi aderiscono. E recentemente, diciamo, non abbiamo programmazione in lunga prospettiva, recentemente invece abbiamo fatto delle iniziative verso la fine di marzo, perché da noi c'è una delle ricorrenze, soltanto una purtroppo, delle tante che ricordano quelli che sono stati gli eccidi nazifascisti in zona, nel 44 in particolare, e durante il fine settimana del 27, 28, 29 marzo abbiamo ricordato questi episodi parlando in questo anno in realtà di una situazione che con Orvieto c'entra poco, ma c'entra sempre con i martiri, diciamo, dell'antifascismo, ovvero della zona del confine orientale, la questione Foibe, perché c'entra relativamente, ma un po' c'entra con Orvieto, perché il sindaco dell'amministrazione di centrodestra di cui ho parlato prima è un esule di quelle terre, e nei 5 anni del suo mandato, chiaramente sostenuto da forze politiche anche di destra totale, non soltanto Forza Italia, ma insomma da Fratelli d'Italia fino a Casa Pound, chiaramente su questo argomento ha spinto molto, fino ad organizzare un paio di iniziative pubbliche con le scuole e così via, che a nostro avviso erano deliranti. Cioè, lui portava la sua testimonianza personale, che nessuno contesta, però ne voleva fare, come dire, un discorso un po' più politico, e lì insomma era abbastanza allucinante quello che veniva raccontato, soprattutto alle giovani generazioni. Quindi noi abbiamo invitato Alessandra Kersevan, che molti compagni conoscono, che da anni si dedica dietro la KV editrice, che da anni insieme ad altri storici si dedica appunto all'approfondimento delle conoscenze sul tema, e è venuta a fare una conferenza e a raccontare, insomma, chi c'era e non solo, quella che è la vera storia di quelle terre, come si è arrivati alle cosiddette violenze contro gli italiani. Ma di certo abbiamo sfatato il mito che certa gente ha subito violenze oppure è stata infoibata solo perché è italiana, perché per fortuna, lavorando su questo, oggi si riesce a vedere, a documentare che la legge dello Stato italiano che ha istituito la giornata del ricordo sta finendo col premiare delle persone che a suo tempo erano da quelle parti non certo in ferie, gente della Guardia Nazionale Repubblicana, Repubblica Sociale Italiana e così via, e che chiaramente, diciamo, in un contesto bellico e subito dopo ha subito chiaramente dalla popolazione locale slovena e non solo, stanca di 20 anni di occupazione nazifascista, ha subito in qualche caso azioni pesanti, e anche questo è stato il nostro contributo per portare, come dire, una parola di verità basata sulla ricerca storica su un argomento che qui da qualche anno stava passando, insomma, come verità soltanto perché era la storia personale del sindaco della città, insomma, e questo è quanto, insomma. Va bene, senti, io ti ringrazio per questa chiacchierata molto, molto interessante, e ti dico, come ho fatto anche con gli altri compagni, come nostra abitudine, e oltre a farvi un in bocca al lupo, che proveremo comunque nelle settimane e mesi che vengono di cercare di mantenere alta l'attenzione sulle vostre iniziative, di capire come evolvono, come evolve la situazione, e quindi, cioè, sperando ovviamente in sviluppi assolutamente positivi di nascita, di crescita e di vittoria, si spera appunto di lotte. E con questo io ti saluto. Grazie dello spazio che la radio sempre ci dà. Io quello che vi posso dire è che per essere informati su quello che facciamo e sulle prossime iniziative c'è appunto il sito del Centro di Documentazione Popolare, che in rete è facilmente reperibile dal motore di ricerca CDP Orvieto, e da lì si possono vedere, insomma, parecchie cose, e grazie ancora per lo spazio. Perfetto, hai fatto benissimo a dare questo riferimento informativo. Quindi un saluto e a presto. Un saluto, un abbraccio a tutti quanti. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. Me, me, Mr. Phil. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La dose quotidiana. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La dose quotidiana. Sì. Io sto coi piedi per terra e sto sul piede di guerra. 31 anni che ogni giorno piove merda. Nessuno mai che paga, nessuno fa una piega. Fra sta gente dimorata che chiusa in casa prega. Domenica in chiesa e lunedì all'inferno. Una mano lava l'altra e il resto pensa al Padre Eterno. In un paese che è sordo e che scorda e dimentica. Ma appena fiuta il sordo torna e rivendica. Rimescola le carte e appena cambia il vento cambia parte. Al capofitto nel profitto non conta quanto grande. Il prezzo da pagare, il conto da saldare. Tanto tutto va bene finché tutto va male. Totale, il rate che mi tocca sopportare. Già dalla mattina ho l'ansia che mi sale. Ma attaccano le pippe sulla fede e sull'orgoglio nazionale. In un mondo che ha chittato come un centro commerciale. Le luci, gli spot pubblicitari, le offerte lancio. E tutto poi che si riduce solo a sesso e calcio. Tutto compromesso già dalla partenza. La difesa, l'accusa, il processo e pure la sentenza. Siamo senza direzione, una nazione rotta verso l'autodistruzione. Un'altra pantomima di un paese che ormai rischia il tracollo. Mentre pippa cocaina con il croce fisso al collo. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La dose quotidiana. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La dose quotidiana.